Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ci ritroviamo dunque con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre per affrontare anche questa settimana due argomenti. Il primo lo sviluppiamo col presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo, ben trovato. Ciao Luca e saluto a tutti gli ascoltatori. Parliamo di una cosa che sembrava caduta in disuso, insomma ci fa risalire, credo fosse addirittura al Medioevo, cioè il pegno. Il pegno è impegnare, da qui poi deriva appunto il verbo, mettere a disposizione di chi ha dei contanti un oggetto, un prezioso, un valore. Questa persona ti presta i soldi e poi alla fine, se tu riesci a restituirgli i soldi, bene, ti riprendi indietro quello che avevi, altrimenti lui si tiene questo oggetto. È un fenomeno che sta ritornando anche questo. Sì, Luca, come hai detto è un fenomeno che sta ritornando, perché allora innanzitutto bisogna partire un po' da lontano, in quanto sappiamo che l'abbiamo affrontato in certe trasmissioni, come le famiglie oggi stanno sempre più arrancando e stanno cercando di trovare qualsiasi genere di soluzione per poter far fronte a quelli che potrebbero essere degli imprevisti. Abbiamo parlato del baratto, abbiamo parlato di fenomeni di compra oro, oggi per la prima volta parliamo dei pegni. Perché? Perché come detto, tra le varie soluzioni che sempre più le famiglie stanno ricorrendo in questo periodo è quello di dare un bene come garanzia di un prestito che ho bisogno e trovare il modo di poter poi restituire la cifra entro, normalmente il periodo si tratta di qualche mese, massimo 6 mesi, a garanzia del pegno che ti ho dato, dell'oggetto anche che può essere. Diversamente, se non riesco a onorare questo debito che ho riscontrato, in questo caso parliamo di banche, si trattiene quello che è il pegno che tu hai dato a titolo di fondo di garanzia. Certo è che comunque è una forma nuova di poter ricorrere ai ripari, certo è che comunque anche questa è qualcosa che ci può far riflettere su quale situazione insomma il paese e le famiglie stanno attraversando. Tu hai detto banche coinvolte, quindi come esistevano appunto nel Medioevo i monti dei pegni, appunto, che poi sono anche diventate banche nel corso del tempo, sono tornate a questa antica funzione, cioè non di commerciare denaro sostanzialmente, ma di prestare denaro in cambio di oggetti. Beh, devo dire che questa cosa ha sorpreso un po' anche noi, perché poi alla fine scopri che dietro a questa cosa ci sono sempre le banche. Cioè, allora veniamo a quella che è la situazione reale. Le famiglie oggi non hanno più soldi e molti hanno dei contratti che sono precari o veramente non hanno la garanzia o la certezza di un futuro. Le stesse banche non ti anticipano più e non ti erogano più finanziamenti e prestiti. Le persone non vogliono, e spero che continuino così, a non voler rimanere vittime di particolari finanziari o veramente di altre forme di indebitamento che lasciamo perdere, ma che abbiamo avuto anche casi di persone vittime di usurai. Oggi i fenomeni che abbiamo anticipato prima, di cui abbiamo affrontato, che ci aggiungo anche il gioco d'azzardo, parliamo di pegni. Certamente, come hai detto te, scopriamo che dietro ci sono le banche a dare questa, a muovere questa cosa, questa nuova forma di indebitamento che molto più facilmente permette alle famiglie di ottenere dei prestiti senza tante clausole che devono sottoscrivere, quando magari si pensa di dover richiedere un finanziamento o un prestito e bisogna sempre avere 1000 garanzie o 1000 garanti. Il discorso del pegno è un discorso nuovo che sicuramente varrà la pena riprendere più avanti, capire veramente anche la dimensione di questo fenomeno. Certo è che da fondo UniCredit, che il 90% comunque dei pegni sostanzialmente vengono riscossi, quindi vuol dire che è proprio una forma di indebitamento o di prestito che le famiglie fanno per far fronte proprio a quelli che sono degli imprevisti che magari in quel momento là le famiglie non contano, non hanno disponibilità di poter avere. Speriamo che anche questa cosa venga gestita bene e che ci sia sempre un'accurata attenzione a tenere d'occhio questo fenomeno, perché non è certamente un fenomeno trascurabile e certo un'occasione anche per continuare appunto a riflettere sullo stato in cui ormai i cittadini vertono in un momento veramente di grande difficoltà economica. Il fatto, come dicevi, che quasi tutti i pegni vengano onorati, cioè che si restituiscono i soldi alla banca che li ha prestati, mi fa pensare che non si tratti di cifre enormi. Anche per me mi fa pensare che sicuramente le cifre non sono enormi, però sai, poi sono convinto che si può scoprire di tutto anche qui. Noi abbiamo cercato anche di estrapolare alcuni dati, alcuni numeri su quella che è la reale entità di questo fenomeno, ma ancora non ci sono dei bollettini che rendono un'idea. Certo è che se prima parlavamo del comproro e dei giochi d'azzardo, adesso veramente il pegno dopo il baratto veramente siamo arrivati quasi, oserei dire, all'ultima spiaggia. Diversamente altre cose non so cosa si potrebbe fare per poter arrivare a sopperire a questi momenti. Certamente ricordiamoci anche altre questioni come sono le banche prestatempo, che abbiamo affrontato anche sempre assieme, e veramente il pegno era l'ultima che ci mancava in ordine di variabili a fronte di quello che appunto è un'esigenza che le famiglie hanno. Speriamo che non lo facciano per curarsi, ma speriamo che lo facciano magari anche come pretesto per liberarsi di alcune cose che magari potevano trovare anche scomode, ma ritengo molto difficile questa cosa. Una cosa che non abbiamo detto, e forse vale la pena sottolineare, è che il pegno viene erogato anche in assenza di regolare busta paga, cioè uno può anche essere non avere appunto uno stipendio, ma riuscire comunque con questa forma ad avere un prestito. Sì, la cosa molto importante è proprio questa, cioè che mentre per un finanziamento o un prestito ci vogliono tante clausole, certe condizioni e garanti, con il pegno uno ha un bene di 1000 euro e chiede 800 euro, perché poi il pegno non può superare quella che è la cifra che una persona richiede, e quindi sicuramente questa cosa disbriga moltissimo di quella che può essere un iter o una tempistica per accedere a una forma di prestito molto più veloce rispetto a quelle più tradizionali. Come tutte le cose, anch'io credo che comunque ci siano delle cifre molto più contenute e delle situazioni che siano, mi auguro, molto più risolvibili rispetto ad altre. Bene, con questo allora ci fermiamo. Tra un paio di giorni c'è un altro argomento molto caldo da affrontare, sempre insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, che ringraziamo col presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con ADICO, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.